Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Piogge intense ma pochi temporali, è il bilancio dopo la notte di maltempo in Friuli Venezia Giulia, con un'attività temporalesca limitata quasi esclusivamente alla bassa pianura, alla costa. Oltre 140 mm di pioggia caduti in poche ore a Grado. Oltre 132.000 studenti del Friuli Venezia Giulia in questi giorni stanno tornando in classe per il nuovo anno scolastico, che in regione prenderà il via ufficialmente mercoledì, anche se in qualche istituto è già suonata la prima campanella. Disagi per lo sciopero nazionale di 8 ore del trasporto pubblico locale, per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri scaduto lo scorso anno. Garantite le fasce di garanzia, adesione già molto alta per i sindacati a Trieste e Pordenone. Con la partenza dell'anno scolastico rimane ancora inattiva per manutenzione straordinaria la linea Udine-Cividale. A luglio partite le attività di subentro di Rete Ferroviaria Italiana nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Denunciata un interprete di lingua russa residente in provincia di Pordenone, dipendente di un imprenditore straniero attivo nella Marca, si era impossessata illegalmente di 60.000 euro. Al via la conferenza scientifica internazionale congiunta del gruppo europeo e del gruppo giapponese dei liquidi molecolari. L'iniziativa, in calendario fino a venerdì, coinvolge oltre 100 scienziati da tutto il mondo. Presentato a Pordenone il programma della rassegna Il volo del jazz, che quest'anno festeggia il 20° anniversario. Illustrato anche il calendario della nuova stagione scenica del teatro di Gradisca. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 9 settembre. L'apertura è ancora dedicata alla situazione del meteo. Poco fa è terminata l'allerta meteo di colore arancione che era stata emessa dalla Protezione Civile per il previsto e poi avvenuto passaggio di un fronte perturbato proveniente da ovest che durante la scorsa notte ha portato in regione intense precipitazioni piovose e temporali, ma non ha causato per fortuna grossi disagi o episodi di particolare criticità. Oltre 140 mm di pioggia che sono caduti in poche ore a Grado. Le onde arrivano alte e spinte dal vento sulle barriere frangiflutti, ma a parte le strade bagnate e il livello molto alto dell'acqua, a Grado è questa l'unica traccia del maltempo arrivato, come da previsioni, tra il pomeriggio di domenica e la notte di lunedì. A dispetto dei 141 mm di pioggia caduta nel giro di poco più di 14 ore, valore record per tutta la regione, non si sono registrati danni o allagamenti, anche grazie all'azione delle pompe da poco installate nelle vie del centro cittadino più esposte. Nessun problema anche sul litorale, dove, come dicono dalla GIT, la pioggia non segna più, come era fino a qualche anno fa, la chiusura della stagione. Tornando ai dati sulle precipitazioni, se i valori massimi si sono avuti sulla laguna, la pioggia è caduta abbondantemente anche in pianura e in montagna, con 114 mm a Monfalcone e 130 mm registrati sulle prealpi Carniche e Giulie. Alla perturbazione appena passata, da mercoledì pomeriggio ne seguirà un'altra, segnale definitivo della fine dell'estate. Secondo i previsori dell'OSMER regionale, infatti, nel giro di pochi giorni si passerà da temperature ampiamente sopra la media del periodo a valori di 4 o 5 gradi sotto la media. Grado, Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste sono decine i migranti che la notte scorsa hanno trovato riparo dalla pioggia sistemandosi sotto i portici della stazione ferroviaria in Viale Miramare. Sono migranti che di solito dormono all'aperto in Piazza Libertà, sulle aiuole, dove però ieri sera non potevano restare a causa della pioggia intensa. Coperti da teli termici, i migranti hanno trascorso la notte lungo tutti i portici e anche oltre, fin dopo il punto dove stazionano i taxi. Sul posto erano presenti anche agenti della polizia in servizio di controllo. E ora vediamo i dati del tempo registrati poco fa. Il cielo è coperto sulla regione, a Trieste ci sono 22 gradi e 5 decimi, il mare è poco mosso con temperatura di 26 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 23 gradi, a Gorizia 22, a Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 15 gradi e mezzo, a Tarvisio e Forni di Sopra 14 gradi e 5 decimi, a Sappada 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 9 gradi e mezzo, 8 gradi e mezzo sul Monte Zoncolata. Passando la costa, a Lignano e Grado ci sono 22 gradi e 5 decimi e la temperatura del mare in entrambe queste località costiere è di 25 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata. Per domani cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio possibile cielo variabile, specie sulla zona montana e forse anche qualche rovescio, qualche temporale. Cambiamo argomento, sono oltre 132.000 gli studenti del Friuli Venezia Giulia che in questi giorni stanno tornando in classe per affrontare il nuovo anno scolastico che in regione prenderà il via ufficialmente mercoledì, anche se in qualche istituto è già suonata la prima campanella, come all'Istituto Superiore Triestino Da Vinci Carli De Sandrinelli. Sentiamo allora la dirigente scolastica Ariella Bertossi. Come ogni primo giorno di scuola c'è sempre un po' di emozione, abbiamo tantissimi iscritti, abbiamo fatto un ingresso scaglionato, prima i piccoli, tra virgolette, poi i grandi o viceversa a seconda delle sedi, però dai, sta andando, sono ancora qui e stiamo lavorando insomma per partire sempre al meglio. Abbiamo un po' di difficoltà perché mancano ancora diversi docenti, a causa alcuni per concorsi che non si sono conclusi, soprattutto in alcune altre regioni, altri perché dopo la nomina magari hanno aspettative, assegnazioni altrove, maternità per fortuna, e quindi insomma fa di sedere ancora tutti al loro posto, sarà impresa che attualmente ancora non riusciamo a finire. Tra le novità ci sono i fondi in arrivo del PNRR, quali sono i progetti in corso? Allora, noi abbiamo il PNR digitale che si concluderà adesso entro settembre, che ha un po' portato enormi risorse sia per quanto riguarda gli ambienti digitali innovativi sia i laboratori, per cui abbiamo avuto sostanziosi finanziamenti, 250.000 euro più altri 150 circa, con i quali abbiamo dotato tutte le nostre aule di tecnologie e arredi all'avanguardia per una didattica molto innovativa e partecipata. Poi abbiamo un PNRR di vari, uno si conclude entro dicembre e uno invece è nuovo, abbiamo un altro finanziamento che ci consente di avviare dei percorsi di supporto per gli studenti in difficoltà, quindi con mentoring, ma anche tantissimi corsi invece di ampliamento, per esempio abbiamo fatto un sondaggio dagli studenti, corsi di arabo, corsi di strumenti e di musica, ecco, per aprire le scuole anche il pomeriggio e avere un posto dove trascorrere altri momenti, non solo esclusivamente curricolari. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È scattato stamane anche in Friuli Venezia Giulia lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato dai sindacati FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAESA CISA, le UGL FNA per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, scaduto lo scorso dicembre anche a causa dell'esito negativo delle procedure di conciliazione. L'astensione dal lavoro, che riguarda sia il personale viaggiante sia quello tecnico e amministrativo, è di 8 ore, varia negli orari da città a città. L'adesione è già molto alta, secondo i sindacati, a Trieste e Pordenone. Garantite le fasce di appunto di garanzia, ma non sono mancate le criticità per gli utenti, anche per la pioggia di stamattina. Le prime stime sindacali parlano di un'adesione che si aggira attorno al 70%, ma la combinazione con la pioggia e la prima campanella in alcune scuole accresce i disagi dello sciopero nazionale di 8 ore del trasporto pubblico locale, che in Friuli Venezia Giulia ha preso il via in mattinata nelle province di Trieste e Pordenone, mentre a Udine lo stop partirà dalle 15 e a Gorizia dalle 16, per concludersi rispettivamente alle 23 e a mezzanotte. A Trieste pensiline affollate di persone che cercano riparo dalla pioggia e confidano nell'arrivo di qualche mezzo e code alle fermate dei taxi. La FILT CGL stima un'adesione del 70% che potrebbe aumentare nel pomeriggio, dal momento che l'astensione dal lavoro terminerà alle 13 per riprendere dalle 18.30 alle 22.30. Dati più o meno in linea con quelli di Pordenone, dove si oscilla fra il 60 e l'80% rispettivamente per extraurbano e urbano. Nella destra Tagliamento però lo stop proseguirà ininterrottamente fino alle 17. A proclamare lo sciopero per il rinnovo del contratto nazionale FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAESA CISA, le UGL FNA, che in mattinata hanno organizzato un presidio a Trieste sotto la sede del Consiglio regionale e sono stati convocati per mezzogiorno. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E con la partenza dell'anno scolastico rimane ancora inattiva per manutenzione straordinaria la linea Udine-Cividale gestita dalla FUC. A luglio sono partite le attività di subentro di Rete Ferroviaria Italiana nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria. La storica linea ferroviaria Udine-Cividale non ripartirà almeno fino ai primi mesi del 2025. Lo si legge in un avviso sulla pagina web di FUC, Ferrovie Udine-Cividale, il gestore privato della tratta. Tra i pendolari abituali serpeggia il malcontento in quanto il protrarsi del fermo della linea, secondo molti, non è stato comunicato a dovere. Le cause della chiusura sono dovute ai lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura che dovrebbero garantire l'adeguamento tecnologico agli standard di sicurezza richiesti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. L'adeguamento della linea ha portato a una sempre maggiore collaborazione tra FUC e RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Proprio a quest'ultima è previsto il trasferimento dell'infrastruttura. Il passaggio poggia anche sulla delibera della Giunta regionale dello scorso luglio, che ha approvato lo schema di accordo tra RFI, FUC e la stessa regione. Nel frattempo prosegue il servizio sostitutivo con autobus, con i nuovi orari validi dall'inizio del mese. Sono garantite 4 corse dirette la mattina dedicate agli studenti pendolari, 2 in partenza da Cividale e 2 da Udine, dove la partenza, davanti alla stazione, non è ben segnalata. Il viaggio ordinario ha una durata compresa tra i 30 e i 40 minuti. Il servizio, però, non soddisfa pienamente gli amanti della sostenibilità, poiché è sospeso il trasporto delle biciclette, rendendo impossibile il trasbordo sui treni bici verso Tarvisio, Trieste e Venezia. Udine, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato un interprete di lingua russa residente nell'area del pordenonese e dipendente di un imprenditore straniero attivo nel Trevisano, perché la donna si era impossessata illegalmente di 60.000 euro. L'interprete, infatti, ricorrendo a una firma apocrifa, si era procurata le credenziali per accedere ai servizi di home banking di un conto corrente intestato al suo datore di lavoro, sottraendogli così del denaro. La donna è stata denunciata alla procura di Pordenone per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, mentre il denaro è stato sequestrato in via preventiva, così come disposto da un provvedimento del giudice per le indagini preliminari. La polizia locale di Trieste, nell'ambito dei controlli preventivi di controllo, appunto, è intervenuto nei confronti di una coppia dal fare sospetto in via Milano. Mentre la donna sembrava fungere da palo, l'uomo tentava di accedere in un paio di stabili, spingendo con forza i portoni principali, tenendo in mano una borsa di nylon contenente, poi si è visto, un piede di porco. La pattuglia decideva perciò di seguirli con discrezione e al terzo stabile notava i due riuscire a introdursi all'interno di un condominio. Intercettati poco dopo, mentre scendevano le scale dal secondo piano, sono stati fermati e accompagnati in caserma San Sebastiano. In seguito a identificazione si è scoperto che entrambi, madre e figlio di origine rumena, risultavano gravati da più precedenti per rapina, furto aggravato, ricettazione e violazione di domicilio. Da qui la denuncia. Al via oggi la conferenza scientifica internazionale congiunta del gruppo europeo dei liquidi molecolari e del gruppo giapponese dei liquidi molecolari. L'iniziativa, in calendario fino a venerdì 13 settembre, supportata nell'organizzazione da Elettrasincrotrone Trieste, coinvolge oltre 100 scienziati da tutto il mondo, tra cui esperti da Europa, Giappone, Stati Uniti, Australia, Cina e Ucraina, per discutere dei più recenti sviluppi nel campo dell'interazione nei liquidi. Le ricerche in presentazione riguarderanno infatti la chimica verde con lo sviluppo di solventi sostenibili e il settore energetico, focalizzandosi su batterie e celle fotovoltaiche. Non mancheranno discussioni su biotecnologie e nanotecnologie, inclusi i gel nanostrutturati per il rilascio controllato di farmaci. Gli incontri si tengono presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, in Sala Budinic, e il meeting è coordinato da Barbara Rossi di Elettrasincrotrone e da Marco Paolo Antoni dell'Università di Perugia. Abbiamo intervistato per parlare dei risvolti pratici delle ricerche in esposizione al convegno. Come tutte le ricerche fondamentali, hanno risvolti anche talvolta imprevedibili, perché l'aumento della conoscenza rispetto a un certo argomento poi è quello che guida anche il miglioramento tecnologico e quindi le applicazioni. In questo caso, per esempio, sono stati scoperti da abbastanza tempo, ma soltanto adesso studiati, alcuni liquidi particolari, per esempio i liquidi ionici, cioè si tratta di sali che invece di essere solidi sono allo stato liquido e possono essere per esempio utilizzati per migliorare l'efficienza delle batterie. Quindi comprendere meglio come i meccanismi che regolano le proprietà di questi sistemi, ci aspettiamo che possa poi valere da traino per migliorare poi le proprietà e l'efficienza, per esempio, delle batterie. I risvolti che voi studiate sono in tutti i campi, cioè non solo... Esatto, è difficile anche prevedere. I risvolti riguardano, adesso abbiamo fatto l'esempio che riguarda l'ambito dell'energia, ma per esempio l'ambito biologico, medico e farmaceutico. Accennavo all'acqua. Beh, se ci pensiamo, tutti i processi biologici avvengono in acqua, mentre molto tempo fa si pensava che l'acqua fosse soltanto un mezzo inerte, adesso si è capito che invece svolge un ruolo importante. Quindi se vogliamo capire di più di come agiscono le proteine, di come funzionano, dobbiamo capire anche di più delle interazioni che si instaurano tra le proteine e l'acqua. È chiaro che questo non è facile perché non le vediamo le molecole, abbiamo quindi bisogno anche di tecniche all'avanguardia. Il congresso che organizziamo è supportato da Elettra Sincrotrone, che possiede le tecnologie adatte per questi studi. Al via il Festival di Trieste, il Faro della Musica, rassegna con alcuni dei più grandi interpreti della musica e della danza, ideato e organizzato dalla Società dei Concerti assieme al Comune di Trieste. Fino al 18 settembre in programma 29 appuntamenti in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Previsto anche un concerto su una piattaforma in mezzo al mare davanti a Piazza Unità d'Italia il 14 settembre con Giovanni Sollima e un'anteprima mondiale di danza Rossetti il 10 settembre. A inaugurare la rassegna al Verdi è stato il celebre pianista Alexander Melnikov, che ha suonato con la FIL, Filarmonica di Milano, guidata dal maestro Marco Seco, direttore del Festival e della Società dei Concerti di Trieste. La serata inaugurale l'ha dedicata a Mozart, di cui Melnikov è considerato tra gli esecutori più autorevoli, con il concerto in sol maggiore e due sinfonie straordinarie, la numero 35 Hafner e la celebre numero 40 in sol minore. A Pordenone compie 20 anni la rassegna Il Volo del Jazz, di cui è stato presentato poco fa il programma stagionale, che anche per lo speciale anniversario si rivela quest'anno particolarmente interessante. Il Volo del Jazz di Sacile, festival organizzato dal Circolo Controtempo, compie 20 anni. Questa mattina a Palazzo Ragazzoni di Sacile la presentazione della nuova edizione speciale, 6 concerti fra il 9 novembre e il 6 dicembre, i primi 5 nel Teatro Zancanaro, l'ultimo alla Fazioli Concert Hall, anticipati da un'anteprima di particolare prestigio. Il 19 ottobre arriverà infatti Brad Mehldau. Seguiranno poi i concerti di 3 gruppi di altrettante carismatiche leader, Rachel Zee, Lady Blackbird e Kina Moses. Concluderanno Stefano Di Battista e Daniel Garcia. L'assessore alla cultura del comune di Sacile, Ruggero Spagnol. 20 anni non sono un anniversario qualunque, è molto importante, è oltre la maggiore età, diciamo un'età di grande consapevolezza, e devo dire Sacile ha la fortuna di continuare a coltivare, grazie al Circolo Controtempo, l'eccellenza, la vera eccellenza del jazz. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E questa mattina a Gradisca di Sonza è stata presentata la nuova stagione del Teatro Comunale della Sala Bergamas. In quest'ultima in particolare è prevista una programmazione che propone anche artisti giovani e già noti nei grandi centri per i testi con cui si sono fatti apprezzare, che sono dedicati ai problemi di chi ha poche primavere, tra cui Nicolò Fettarappa e Xenia Martinovic. Diverse le proposte per il teatro, come ci ha spiegato il direttore artistico Walter Mramor. Sono 60 alzate di sipario, sono tantissime, che direi si possono dividere in 3 progetti fondamentali: la grande stagione teatrale, il percorso articolato dedicato ai giovani e ai giovanissimi e il percorso che si svolgerà invece in Sala Bergamas dedicato alla ricerca e alle urgenze del nuovo teatro contemporaneo. L'alzata di sipario per quanto riguarda la stagione teatrale è il 6 di novembre con uno spettacolo che è ormai un cult, è uno spettacolo che è nato 23 anni fa, il titolo è Fiesta, è un omaggio a Raffaella Carrà, quindi uno spettacolo brillante che vedrà come protagonista Fabio Canino e che nella nostra regione ancora non è stato visto, mentre nelle grandi città è veramente stato replicato per molto molto tempo. C'è un'anteprima che è fuori abbonamento il 29 di ottobre, è un omaggio a un'attrice che noi amiamo molto, un'attrice di Trieste, Ariella Reggio, col suo nuovo spettacolo che si chiama Il nostro angelo, in dialetto triestino, e che vede la regia di Davide Calabrese. Tanti altri artisti, arriverà a Gradisca al Teatro Grande Davide Enia, col suo autoretratto, che è un racconto della sua infanzia palermitana e come lui personalmente ha affrontato i temi difficili di quella terra, anche la conoscenza di personaggi come Borsellino o padre Pino Puglisi, ma ci sarà anche la commedia al titolo Come si vede stasera, con due attori che amiamo molto, che sono Dalia De Laurentiis e Max Pisu. E poi tanti altri titoli, Torna Anna dei Miracoli, che è un testo meraviglioso, con Anna Proclemme, recinta di Carolis. In questo caso la protagonista è Masha Musi e la storia la conosciamo tutti. Per chiudere in grande allegria con uno spettacolo interattivo, Forbici Follia, e che prevede un finale diverso tutte le sere con degli artisti come Max Pisu, Nino Formicola, Giancarlo Ratti e tanti altri. Dopo la prima epica tappa del Giro d'Italia sullo Zoncolan in Giardin Grande a Udine, era comparso uno striscione con su scritto Cainero Santo Subito, una testimonianza tangibile dell'amore, della considerazione che Cainero godeva tra i friulani non solo per le imprese del ciclismo, ma per la sua figura immersa nella società, dagli alpini allo sport, passando per i mondi del volontariato e della politica. Da oggi il nome di Enzo Cainero nel famedio del cimitero monumentale di San Vito sta accanto a quello di dotti, medici e sapienti che hanno dato lustro alla città di Udine. Una cerimonia partecipata solo da amici e familiari, ma anche da molti rappresentanti delle principali istituzioni pubbliche e private della società friulana. Passiamo al calcio, tornando a parlare della prima sconfitta a Rocco per la Triestina, la seconda consecutiva dopo quella in trasferta contro la Clodiense. Gli alabardati si sono arresi anche dinanzi al Caldiero Terme per 0-1 e alla fine si è fatta sentire la contestazione dei tifosi nei confronti della squadra e della dirigenza, messe sotto accusa. Tre partite, due sconfitte e a fine gara arrivano anche i fischi. La Triestina esce dal Rocco battuta dal Caldiero Terme, formazione veronese che per la prima volta nella storia gioca in Serie C. Risultato finale di 1-0 grazie al gol decisivo di Tommaso Marras, arrivato dalla primavera del Monza, che dopo pochi secondi di gioco e una serie di passaggi azzeccati trova un gran tiro da fuori che gela rosso e una difesa addormentata. Per gli alabardati tutto in salita, dopo un quarto d'ora di confusione e un'altra azione pericolosa del Caldiero, arriva la di El Azrak, una punizione potente che si stampa sulla traversa. Un boccone amaro per i biancorossi, che però, dopo lo shock dei primi minuti, cominciano a dominare e vanno vicino al gol con D'Urso, che riceve palla su suggerimento sempre di El Azrak, ma sciupa tutto sparando sul portiere. Il Caldiero si difende in tutti i modi. Al 29esimo l'azione più discussa della partita, Vocca in area, ipnotizza la difesa, trova spazio e tira, ma la palla finisce sul braccio alzato di Gattoni. Sarebbe da rigore, ma l'arbitro non vede e non fischia. Nella ripresa ancora Triestina all'attacco, ci prova di testa Fertainen, fino a quel momento si era visto poco, e poi ancora la Srakka al 65esimo, che ruba palla a metà campo e tira dagli 80 metri, cercando di beffare il portiere, ma non va. Per i biancorossi finale all'assalto, ma il risultato resta fisso sull'1-0. Per il Caldiero è una vittoria storica, per la Triestina un incubo, e piovono i fischi, non meritati secondo Santoni. La squadra ha dominato la gara, creando 22 occasioni, ma senza concretizzarne neanche una. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo di scherma, la friulana Mara Navarria, oro olimpico nella spada squadra ai Giochi di Parigi, già studentessa del corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Udine, ha incontrato il rettore dell'Ateneo Roberto Pinton e il prorettore Andrea Caffarelli. Alla campionessa azzurra del Centro Sportivo Esercito, il rettore ha espresso i più sentiti complimenti a nome di tutta la comunità universitaria per la vittoria alle Olimpiadi e per la sua straordinaria carriera che rappresenta, ha detto Pinton, un modello per i nostri studenti. Il mio percorso da studentessa è sempre stato fondamentale e parallelo rispetto alla mia carriera professionale e sportiva. Queste le parole di Mara Navarria, che si è detta testimone orgogliosa della scelta possibile che unisce sport e studio. Tennis, la Lombardia si è aggiudicata la 13ª edizione dell'Euroregione Tennis Cup, manifestazione per rappresentative Under 10 organizzata dal Tennis Fagagna in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel del Friuli Venezia Giulia. Una tre giorni di gare che si è tenuta anche sui campi del Tennis Martignacco, alla Modus Starcento e all'Azteca di Tavagnacco. Nella finale i mini tennisti lombardi hanno surclassato con un perentorio 6-0 il Piemonte, che si era aggiudicato l'edizione 2022 2023. Nella finalina per il terzo posto l'Emilia Romagna ha superato nettamente il Veneto. Nella finale per il settimo posto l'Austria si è imposta 5-1 sul Friuli Venezia Giulia, capitanato da Mauro Commisso. Il punto per i padroni di casa è arrivato da Giada Manna, mentre sono stati sconfitti Francesco Fontana, Lorenzo Infanti e Angelica Nola. Si avvia la conclusione a Staranzano, la Sagra delle Razze, che per 10 giorni ha gioiosamente occupato il centro cittadino con i suoi stand dedicati principalmente alla cucina delle anatre selvatiche, le razze appunto, che sono tradizionale presenza avicola del territorio. Domani sera ultimo atto con la tombola in piazza, conclusa con successo nonostante il tempo incerto anche la festa del baccalà di Turiaco, mentre nella città vicina di Ruda è stata inaugurata la rinnovata piazza Cavalieri di Malta, nucleo storico della frazione di San Nicolò. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Per la musica, secondo appuntamento al Teatro Verdi di Trieste nell'ambito del Festival di Trieste Il Faro della Musica, che è una rassegna con alcuni dei più grandi interpreti di musica e danza. Oggi sarà protagonista l'oboe di Albrecht Mayer con Andreas Ostensamer, primo clarinetto della Filarmonica di Berlino. In programma musiche di Mozart e Mendelssohn, Alzata di Sipario alle 20:30. Altro evento della giornata della rassegna, lo spettacolo per bambini Storia di una stella marina alla Casa della Musica alle 16:30. La 37esima edizione della stagione concertistica Note del Timavo, sezione classica, sarà inaugurata oggi dall'Orchestra Officina Musicum Venezia. In programma musiche di Bach e Favero, Aduino Risina nella Chiesa di San Giovanni in Tuba alle 21. Per gli spettacoli Luigi Ciotta, attore, clown, circense, artista di strada e pittore, si esibirà in Abattoir Blues, spettacolo dedicato al maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi e al nostro rapporto ambivalente con la carne. Appuntamento a Pordenone in Piazza della Motta, in caso di pioggia all'ex convento San Francesco alle 21:30. E prima di chiudere diamo un'informazione di servizio. Friuli Venezia Giulia Strade informa che oggi partono i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul torrente Degano sulla strada regionale 465 della Forcella Lavardette Valle San Canciano. Considerata la necessità di chiudere al transito il ponte per eseguire gli interventi per garantire la viabilità della strada, FVG Strade ha realizzato un bypass sul torrente Degano con deviazione sulle strade comunali di Ovaro e Comeglians, su cui è stato deviato appunto il traffico dalle 10 di questa mattina fino a fine lavori. A seguito della chiusura del ponte, la fermata TPL di Ovaro lungo la strada regionale 355 della Val Degano è stata quindi soppressa fino a fine lavori ed è stata istituita una nuova fermata sostitutiva all'interno della deviazione. E alle 12:56 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoic e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.